Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che da marzo 2012 mette gli altri animali al centro del dibattito su attualità, cultura, economia, consumi e tanto altro ancora, per affermare una prospettiva antispecista che non privilegi, come accade di solito, una sola specie su tutte le altre, naturalmente la specie umana. Per questa redazione tutti i viventi sono degni di considerazione e di rispetto. In questa puntata, che è la numero 628, parleremo della sentenza storica che in Norvegia vieta l'allevamento di alcune razze di cani. Parleremo della peste suina dovuta all'impostazione zootecnico-venatoria della nostra società. Daremo conto dell'inserimento della tutela dell'ambiente nella nostra Costituzione. E infine andremo in Svizzera, dove è in corso un referendum sui diritti dei primati non umani. Non mancheranno, nemmeno questa volta, una ricetta cruelty free e tantissima buona musica, a cura del tosco vegan chef e DJ Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriositi. Scorsi, con una sentenza storica, la Norvegia ha vietato l'allevamento di due razze di cani brachicefali, il Cavalier King Charles Spaniel e il Bulldog inglese. Con le loro piccole dimensioni, la forma della testa un po' tozza e gli occhi grandi ed espressivi, le razze canine brachicefale sono tra gli animali da compagnia più richiesti e più alla moda. Eppure sono esemplari intrinsecamente sofferenti, ovvero con deficit congeniti o vulnerabili geneticamente per patologie severe. In questa trasmissione abbiamo più volte affrontato la questione delle razze animali, esprimendo sempre la nostra posizione fermamente abolizionista. Non è semplice mettere in discussione la questione delle razze animali. Prima di tutto per motivi storici. La selezione delle razze infatti viene praticata da quando, nel Neolitico, la specie umana ha scelto una vita stanziale, fatta di agricoltura e di allevamento. C'è poi la questione economica, perché sulla selezione di razze sempre più produttive e sul loro sfruttamento, specialmente per il consumo di alimenti, si è fondata una fetta gigantesca dell'economia mondiale. A queste difficoltà si è aggiunta poi l'esplosione delle razze da compagnia, ormai diffusa a ogni livello della società. Prima era un vezzo per pochi privilegiati, ma oggi acquistare un animale di razza è diventato un consumo alla portata di tutti. La fabbrica dei cuccioli non si è fatta trovare impreparata e ha inondato il mercato con animali dalle più diverse morfologie per soddisfare ogni gusto, ogni capriccio, ogni esigenza. Cani sempre più piccoli, poco ingombranti, da borsetta, cani piumino, nudi o coperti da vere e proprie esplosioni di pelo, zampe di ogni lunghezza, con mantelli dai colori più improbabili e con i più diversi rapporti tra la testa e il resto del corpo. Tutto, insomma, è possibile. Tutto è ottenibile, basta pagare. La selezione di tratti desiderabili continua a sfornare creature grottesche, incapaci di vivere una vita sana solo perché vengono visti come divertenti, piacevoli, teneri, stravaganti o raffinati. È questa la dura realtà. Cani e gatti con caratteri fisici esasperati sono spesso malati cronici, provano dolore, disagio, stress, proprio per quei caratteri che li rendono interessanti a livello di mercato. Il modo più efficace per soccorrerli non è accudirli e curarli, ma semplicemente non farli più nascere con quelle caratteristiche, non comprarli e renderli quindi non più interessanti per il mercato, in quanto prodotti non più desiderati. I cittadini consumatori devono svegliarsi, devono trovare le informazioni che ancora non circolano a sufficienza e devono esercitare il loro potere. Dicono di amare gli animali? Lo dimostrino, e lo dimostrino con il loro grandissimo potere, sentendosi responsabili delle proprie scelte, perché ormai sono i veterinari stessi a denunciarlo. Bisogna interrompere questo meccanismo, un cortocircuito che si autoalimenta per il profitto che crea. Sul divieto norvegese ad allevare due razze di cani brachicefali, ovvero quelli col muso schiacciato, abbiamo sentito Massimo Raviola, veterinario antispecista, nostro interlocutore privilegiato sulle questioni tecnico-scientifiche, e vi ricordiamo che nella home page del nostro blog restiamoanimali.it troverete anche il link di una miniserie di interventi del veterinario Massimo Raviola contro la selezione delle razze animali, e vi consigliamo naturalmente di leggere il suo libro Che razza di bastardo, edizioni L'età dell'acquario. Leggiamo finalmente la notizia che uno Stato europeo, la Norvegia, ha deciso per legge di vietare l'allevamento di alcune razze brachicefale come il Bulldog e il Cavalier King Charles. Bene, ottima notizia. Dobbiamo però considerarla solo come un inizio, un piccolissimo inizio. Il problema, purtroppo, è molto più ampio. È un problema culturale. Non c'è percezione nel pubblico delle gravi sofferenze causate a questi animali dalla selezione di razza. Il brachicefalismo, ovvero il muso schiacciato, caratteristica ricercata e considerata tanto carina, non è altro che una grave malformazione che causa sempre, senza se e senza ma, gravi problemi respiratori per tutta la vita di questi animali, e non solo. Il grosso problema è sicuramente nell'allevamento di questi cani, ma soprattutto è nel fatto che il pubblico li richieda, che dimostra come non ci sia coscienza del maltrattamento che gli stiamo infliggendo, semplicemente per futili motivi estetici. Il mio timore è che se non si comincia con un'imponente campagna culturale sulla gente al fine di prendere finalmente coscienza di questi gravi maltrattamenti, rimanendo alta la domanda, si svilupperanno allevamenti abusivi, se vogliamo ancora più dannosi. Va compreso che il seme di questo maltrattamento genetico sta proprio nel concetto di razza. Non esistono animali di razza realmente sani. Il vero successo nel benessere animale si otterrà solo quando capiremo tutti che il razzismo è pericoloso nei confronti dei nostri animali tanto quanto lo è per gli esseri umani. Wednesday, break my heart. All Thursday. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. And Sunday always comes too late. But Friday never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday, I'm in love. Dalla Norvegia torniamo in Italia per parlare di una nuova emergenza epidemiologica che sta colpendo il nostro paese. Si tratta della peste suina africana, un virus altamente contagioso e mortale che si diffonde tra cinghiali e suini. Non è trasmissibile all'uomo per via diretta, ma è in grado, se non è arginato in tempo, di decimare la popolazione suina, come accaduto negli anni passati in Cina. La Cina, infatti, ha già sospeso l'importazione di carne dall'Italia. Gli animali infettati muoiono quasi sempre nel giro di una decina di giorni. I primi casi nel nostro paese si sono verificati in Piemonte e Liguria e da pochi giorni sono stati rilevati alcuni casi in Toscana. Al momento sembra essersi diffusa esclusivamente nei cinghiali selvatici, ma la preoccupazione è che questi possano contagiare a loro volta gli animali degli allevamenti, causando ingenti perdite economiche. Naturalmente la preoccupazione non è mai per la vita degli animali, ma sempre per le perdite economiche che questi rappresentano. Tutta l'attenzione è rivolta quindi alla salvaguardia del mercato della carne, per tutelare gli allevatori che in caso di contagio si vedrebbero costretti ad abbattere tutti i capi. E quindi c'è anche poi la preoccupazione di sganciare ingenti rimborsi per queste perdite. Per questa malattia ovviamente non esistono né cure né vaccini. Per salvare i cittadini umani i governi hanno messo a disposizione enormi risorse, ma il trattamento per animali che nascono già condannati a morte sarà ovviamente tutto diverso. Il modo in cui questa malattia si propaga da un continente all'altro, inutile dirlo, sono gli spostamenti di animali e di carni infette operati dall'uomo. È grazie all'allevamento intensivo, al commercio di animali vivi, alla dispersione di cinghiali attuata dai gruppi venatori, alla commercializzazione di insaccati e carni stagionate non cotte e ad altri fattori direttamente collegati all'allevamento e alla caccia, se ci ritroviamo oggi con una nuova epidemia che sta già causando restrizioni a chi vorrebbe semplicemente frequentare i boschi. L'attivista antispecista Stefano Belacchi scrive nella sua pagina Facebook: «La zootecnia sta, in mille modi, distruggendo la vita sul pianeta e nonostante i continui allarmi, ormai visibili ovunque, continuiamo a giustificare l'allevamento e a fornire sussidi e incentivi economici a tutta la filiera». Che la causa sia la peste suina africana o la mano dell'uomo, il destino dei suini allevati era già segnato. La fossa comune per quasi ogni maiale o cinghiale consisteva già nella tavola imbandita di un altro animale chiamato umano. Aggiungiamo che un'ordinanza in Liguria aveva imposto di abbattere centinaia di maiali e di cinghiali. Nella zona rossa tutti i suini bradi e semibradi e di allevamenti familiari dovevano essere abbattuti o macellati. Quindi anche quelli salvati, ospiti di rifugi, privati e famiglie nei territori dichiarati zona rossa. Ci sono stati dei presidi, sono stati fatti dei mail bombing, delle raccolte firme. Queste forme di resistenza sono state organizzate principalmente dalla rete dei santuari di animali liberi che riunisce vari rifugi nei quali vivono maiali scampati al macello e finalmente il Ministero della Salute ha reagito stabilendo una deroga per i suini che vivono nei rifugi che quindi non rischieranno più l'abbattimento. Una prima vittoria dovuta all'impegno e alla resistenza delle persone che si sono mobilitate, ma ci sono ancora situazioni per cui lottare. Maiali e cinghiali a rischio di essere condannati a morte, come per esempio la grande colonia di un centinaio di esemplari che vive a Genova lungo il greto del torrente Bisagno. Per decidere la loro sorte sono arrivati in Italia 3 ispettori dell'Unione Europea che hanno fatto un sopralluogo tra il 10 e l'11 di febbraio. Sapremo presto quale sarà il loro destino, ma indipendentemente duramente dall'emergenza della peste suina, occorre continuare a mobilitarsi, come scrive Francesco De Giorgio, per cambiare la conoscenza degli animali, passando da una distorta conoscenza zootecnica venatoria di molte specie a un giusto paradigma di conoscenza da un punto di vista antispecista. Martedì 8 febbraio 2022 è una data che verrà ricordata per l'introduzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi italiani tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, superando quindi il generico riferimento alla difesa del paesaggio che da sempre è contenuto nel testo. L'articolo 9, che enuncia tra i compiti della Repubblica anche quello della salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione, sarà integrato con l'aggiunta della frase seguente: tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Questo è l'articolo 9. C'è poi l'articolo 41 riguardante la libera iniziativa economica, che oltre a non arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, come già prescritto nel secondo comma, non dovrà nuocere neanche alla salute e all'ambiente. Modifica simile per il terzo comma dello stesso articolo, che tra i fini della libera iniziativa economica prevede, assieme a quelli sociali, anche quelli ambientali. Il provvedimento espande infine l'ambito di applicazione della disciplina per la tutela degli animali anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti. È stata espressa soddisfazione in modo trasversale da tutti i politici, in particolare dai parlamentari del Movimento 5 Stelle, che da sempre sono in prima linea su questi temi. Poi è arrivato anche il plauso delle maggiori organizzazioni di tutela ambientale, dal WWF a Greenpeace fino alla LAV. A questo punto sono tanti i dossier che dovrebbero riaprirsi alla luce di queste belle affermazioni, a partire dalla gestione dei selvatici, cinghiali, lupi e ultimamente anche gli orsi, che nella provincia autonoma di Trento sono stati oggetto di scelte dal nostro punto di vista scellerate. Se gli animali poi fossero davvero tutelati, dovremmo mettere in discussione lo sfruttamento alimentare, quello sportivo e ludico, fino ad arrivare alla vivisezione. Insomma, di cose da fare ce ne sarebbero tantissime, ma le reali intenzioni di questo governo non sono poi così trasparenti. Anche il ministro Cingolani ha avuto uscite assai contraddittorie da un punto di vista ecologico. Infine, un'amara considerazione. Il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione, i limiti alla proprietà privata, alla libera iniziativa economica, fino alla progressività del sistema tributario, il diritto d'asilo, l'uguaglianza dei cittadini, tutti questi enunciati bellissimi, si trovano anch'essi nella prima parte della Costituzione, ma sono sempre più astratti e disattesi. Ecco, non vorremmo che la tutela dell'ambiente e degli altri animali finisse in questo stesso museo, splendido, ma poco visitato. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up, everybody take a stand. Join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I cittadini di Basilea in Svizzera domenica 13 febbraio 2022 sono chiamati a esprimersi sulla possibilità di inserire il diritto alla vita e all'integrità fisica dei primati nella Costituzione cantonale. Sono molte le testimonianze scientifiche che hanno già segnalato come i primati siano a tutti gli effetti degli esseri senzienti, capaci di provare un'ampia gamma di sensazioni profonde che vanno dalla gioia al dolore. Un team internazionale, per esempio, ha rilevato come gli oranghi siano in grado di usare l'arte per esprimere la loro individualità. L'iniziativa a favore dei diritti fondamentali dei primati è stata promossa dal think tank svizzero che si chiama Politiche per la Senzienza, che a partire dal 2016 si è occupato di raccogliere le 100.000 firme necessarie a indire il referendum per la modifica della Costituzione cantonale. Per la prima volta al mondo le persone potranno così esprimersi sui diritti fondamentali degli animali. La domanda sui diritti fondamentali dei primati viene proposta insieme a una serie di altri quesiti, alcuni solo a livello cantonale, ma due a livello federale, uno relativo alla proibizione dei test scientifici sugli animali e sugli esseri umani e uno sul bando alla pubblicità del tabacco in forme visibili ai bambini. Questi ultimi avranno quindi effetto non solo sul cantone di Basilea, abitato da poco meno di 200.000 persone, ma avrà effetti sull'intero paese. Questa iniziativa non è solo un'opportunità per Basilea come cantone faro, ma più in generale per tutta la politica animale e ambientale in altre regioni della Svizzera e in tutto il mondo. Adottando l'iniziativa, il diritto alla vita e all'integrità verrebbe inserito nel catalogo dei diritti fondamentali, e in questo modo si porrebbe effettivamente fine alla violazione degli interessi più fondamentali dei primati. Sono 150 i primati che vivono entro i confini del cantone, molti dei quali sono detenuti nello zoo di Basilea. Come era prevedibile, subito dopo sono arrivate le proteste del giardino zoologico, che ha segnalato come il provvedimento sia rivolto principalmente a limitare le loro attività, dato che le uniche scimmie dell'area cantonale sono in loro possesso. Lo zoo ha invitato i cittadini a votare no all'iniziativa, sostenendo di dare un importante contributo alla protezione delle scimmie. Non è dello stesso parere Senzienza Politica, che sostiene come ad essere al primo posto per lo zoo di Basilea siano i programmi di allevamento e il profitto. Per l'associazione animalista è definitivamente terminato il tempo della mediazione. I primati sono usati per l'intrattenimento e la ricerca, ma non hanno mezzi di autodeterminazione e non possono difendersi. La legge svizzera sulla protezione degli animali, sostiene appunto l'associazione animalista Senzienza Politica, non rende giustizia al principio della dignità degli animali che invece è sancito dalla Costituzione. La decisione è adesso rimessa nelle mani dei cittadini di Basilea. Amami ancora. Fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente, amami ancora, fallo dolcemente, solo per Mente. per concludere la puntata abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporci una ricetta a tema e, visto che abbiamo parlato di selezione delle razze, una ricetta antirazzista. Ricordiamo ancora una volta che potete trovare in vendita l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è «Se vuoi vivere sano, cucina vegano». Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Oggi ricetta antirazzista, quindi ho deciso di raccontarvene una che appartiene ad una cultura fra le più discriminate. Una zuppa di verdure della tradizione nomade cotta nella olla, la pentola di coccio. Gli ingredienti per 4 persone per la zuppa gitana sono 100 g di ceci, 100 g di fagioli bianchi di Spagna, 100 g di taccole, 2 patate, 2 pere, 2 carote, una cipolla, uno spicchio di aglio, 100 g di polpa di zucca, 100 g di passata di pomodoro, olio extravergine di oliva, un cucchiaino di paprika dolce, dello zafferano, menta fresca, sale e pepe. Lasciate i ceci e i fagioli in ammollo per almeno 12 ore. Quindi scolateli e fate cuocere solo i ceci per 45 minuti in abbondante acqua. Successivamente unite anche i fagioli e lasciate cuocere a fuoco lento per un'ora ancora. Nel frattempo pulite le carote, la zucca e le patate e tagliate il tutto a cubetti. Unite ai legumi e dopo 10 minuti aggiungete anche le taccole, pulite e tagliate a pezzetti. Aggiustate di sale e pepe e fate cuocere ancora 20 minuti. Tagliate le pere a cubetti e versate nella pentola cuocendo ancora 20 minuti. A parte sbucciate e tritate la cipolla e fatela soffriggere in una padella assieme alla paprika. Aggiungete il pomodoro e lasciate ritirare a fuoco lento. Quando sarà ben concentrato, versate il tutto nella zuppa. Infine schiacciate l'aglio assieme allo zafferano e ad un cucchiaino di sale grosso. Unite anche questo nella pentola e terminate la cottura. Togliete dal fuoco e aggiungete le foglie di menta spezzate a mano. Se lo gradite, servite con crostini di pane tostato. La cosa migliore, se disponibile, sarebbe cuocere la zuppa in una pentola di coccio. Vi saluto e vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Valentina Reggioli, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 629 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.